Perfetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it oppure durante la trasmissione, 349-238-6666. In apertura parliamo di Expo. Come avete sentito dai titoli, c'è un nuovo indagato. Ci colleghiamo con la giornalista del Sole 24 Ore, Sara Monaci, che sta seguendo la vicenda. Sara, innanzitutto buongiorno. Sì, buongiorno. Chi è l'indagato? Allora, l'indagato è Antonio Acerbo, che era già stato anni fa direttore generale del Comune di Milano durante l'epoca di Letizia Moratti. Adesso, da quasi un anno, era stato scelto dal commissario unico Giuseppe Sala, il commissario unico dell'Expo, come suo subcomandante, così li definivamo, diciamo, con un termine giornalistico, i due delegati, i due assistenti che Sala aveva scelto per seguire i lavori, per affiancarlo, dividendo dei compiti. Acerbo, che già in passato era conosciuto come un esperto di infrastrutture e che aveva già realizzato dei progetti per Milano, adesso stava seguendo le infrastrutture connesse dell'Expo, anzi sta seguendo, perché non risulta allo Stato nessun tipo di dimissione, e in particolare le vie d'acqua che erano già state, se vi ricordate, chiacchierate e molto discusse, perché erano finite già nel primo dossier dell'inchiesta della Procura di Milano. Le vie d'acqua, lo ricordo, sono la struttura che dovrebbe portare acqua al sito espositivo di Rho per poi tornare ai Navigli e alla Darsena. L'ultimo tratto era quello che era stato affidato all'azienda Maltauro, quindi già oggetto di inchiesta nella prima parte dell'inchiesta su Expo. Adesso Acerbo segue il progetto come ingegnere, sì, e più, ricordo, ha proprio la supervisione delle opere connesse, delle opere infrastrutturali che dovrebbero collegare Milano al sito espositivo. Allora, Sara, va bene, l'indagine è tra l'altro per turbativa d'asta e corruzione, come dicevamo, vedremo come si evolverà la vicenda. Sì. Tra l'altro si parla anche di possibili nuovi e diversi indagati. Io intanto ti ringrazio, aggiorneremo i nostri ascoltatori nel corso della giornata. Adesso passiamo a parlare di lavoro. Questa mattina il governo ha presentato un emendamento in commissione al Senato sul contratto a tutele crescenti, che sembra essere un punto di approdo condiviso, e intanto il Presidente del Consiglio torna a parlare in visita ad un'azienda Settimo Torinese. Dunque facciamo un punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno Simone. Il governo accelera di fatto sul mercato del lavoro. Ieri l'avviso del Presidente del Consiglio Renzi: se la delega avrà problemi in Parlamento passeremo alla decretazione d'urgenza. Oggi qualcosa di più concreto con la presentazione dell'emendamento al Senato all'articolo 4 sul riordino delle forme contrattuali per le nuove assunzioni. Viene previsto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Questo quanto recita la proposta di modifica al Jobs Act, e si parla anche di demansionamenti e controlli a distanza. Si va verso quindi una flessibilità nelle mansioni anche per la tutela del posto di lavoro, di cui i margini secondo alcuni osservatori per intervenire anche sull'articolo 18. Ma dicevamo in apertura del Presidente del Consiglio Renzi, visita oggi del Premier a Settimo Torinese, è stata l'occasione anche per tornare sul tema delle municipalizzate. Sentiamo Renzi. Noi dobbiamo essere capaci di riconoscere quando le aziende municipalizzate sono aziende municipalizzate che servono e quando invece sono il parcheggio per esperienze politiche che non funzionano più. Perché le 8.000 aziende municipalizzate italiane sono troppe. Gli 80 euro in busta paga non sono stati una mancia elettorale, ha detto ancora Renzi, e nel lungo tempo, grazie a questi, i consumi aumenteranno. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e ci è arrivata conferma un attimo fa, ospiteremo tra poco il sottosegretario al lavoro Bellanova proprio per fare il punto su queste modifiche presentate dal governo. Intanto iniziano ad esserci le reazioni e, come si diceva, sembra profilarsi un accordo abbastanza chiaro anche col nuovo centrodestra. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, esulta il nuovo centrodestra e Forza Italia, invece critica la sinistra PD e il Movimento 5 Stelle. Maurizio Sacconi Meloni esprime piena soddisfazione per il nuovo testo di delega sul lavoro e ha proprio detto: la mediazione riguarda l'applicazione del nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale le tutele diventano progressive in relazione all'anzianità di servizio alle nuove assunzioni. Ieri per Forza Italia Renato Brunetta ha incalzato il governo in aula proprio sull'articolo 18, ha spronato Renzi a dire esattamente quello che vuole fare, ma da parte della sinistra PD ovviamente c'è un freno. Cesare Damiano avverte il governo: nessun decreto con una delega sul lavoro in corso in Parlamento, mentre per Pippo Civati l'abolizione dell'articolo 18 non è in campo, c'è molto rumore per nulla. Critico anche il Movimento 5 Stelle per Walter Rizzetto: stiamo arrivando al mercato delle vacche, chi lavora per più tempo prende di più, non è abolendo le tutele che si crea lavoro con un'occupazione giovanile al 42%. I sindacati invece annunciano battaglia. Susanna Camusso della CGIL prepara una mobilitazione unitaria, d'accordo anche Luigi Angeletti della UIL, e il segretario della FIOM Landini dice che l'accelerazione è dovuta proprio alla volontà della BCE. Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista è molto più duro: Renzi fa il servo di Merkel e banchieri. A te Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. In tutto ciò, visto che si parla di economia, veniamo proprio alla manovra economica che si prepara, la legge di stabilità. Ormai manca meno di un mese, cerchiamo di fare un punto anche sul lato risorse, anche sul lato delle dichiarazioni che arrivano dall'Europa con la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno Simone. Intanto le dichiarazioni del ministro dell'economia Padoan, che dopo le stime al ribasso di OCSE e Confindustria vede nero almeno per il 2014, la ripresa non ci sarà, i numeri del governo ovviamente si vedranno solo con la nota di aggiornamento del DEF che arriverà il 1 ottobre, ma il titolare dell'economia mette le mani avanti, anche se dice il numero negativo sarà molto più piccolo del passato e risalirà già dal prossimo anno. Di fatto però lo stato attuale, il cammino della legge di stabilità si complica, anche se il governo esclude una nuova manovra e farà di tutto per trovare risorse sufficienti e credibili senza aumenti di tasse, dunque senza il paventato aumento dell'IVA, ma attraverso la revisione della spesa. Viene confermato anche il bonus degli 80 euro, mentre il contributo principale per riagganciare la crescita secondo Padoan verrà dalle riforme, quelle riforme che sappiamo l'Europa aspetta, come ha ribadito ancora oggi il commissario agli affari economici Katainen. Senza non ci può essere il ritorno alla crescita, nessun paese può evitarle, ha detto, aggiungendo che occorre un maggiore sforzo per ridurre le tasse sul lavoro. Tutto questo mentre oggi a Francoforte poi si riunisce il consiglio direttivo della BCE. Intanto sul rischio che l'Italia possa essere commissariata è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del consiglio Graziano Del Rio, ha detto: assolutamente no, abbiamo fatto i compiti a casa. E con questo è tutto, a te Simone. E grazie ad Alessandra Schepisi. Meno uno al referendum in Scozia, si vota domani. Ad Edimburgo c'è Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, sono 4.285.000 gli aventi diritto e dal comitato elettorale subito si sottolinea in quanti si siano registrati, circa il 90% della popolazione votante, un numero che comprende anche i ragazzi di 16 anni e gli immigrati residenti e con un lavoro in regola. Ma sono molte le tensioni della vigilia tra i fronti opposti, con scambi di accuse da una parte e dall'altra. Il leader indipendentista, primo ministro scozzese Alex Salmond, ha messo in piedi anche un processo mediatico ai giornalisti della BBC tacciati di partigianeria per il fronte unionista soltanto per aver mostrato un sondaggio in cui le donne parrebbero essere il vero ago della bilancia, che stando alle ultime rilevazioni propenderebbero in maggioranza proprio per il no. Se fino alla settimana scorsa infatti i sondaggi oscillavano, nelle ultime 24 ore le opinioni complessive mostrano un leggero vantaggio, ormai piuttosto stabile, per gli unionisti al 52% contro il 48% per i sì, secondo i principali quotidiani, sia inglesi sia scozzesi. Il motivo sarebbe lo spostamento degli indecisi, dopo che giornali e TV hanno preso in considerazione i costi effettivi dell'indipendenza, che vanno dalla sanità, oggi gestita da Edimburgo ma pagata in buona parte da Londra, fino al comparto della difesa. Allora, questo è il punto dal lato dei sondaggi e dal lato del voto, sondaggi nei quali, lo ricordiamo, appunto un margine del 4%, resta un margine tutto sommato piuttosto stretto. La questione che si sta imponendo in queste ultime ore di campagna elettorale, Francesco, è quello che può succedere nei rapporti della Scozia con l'Europa, perché tutt'altro che scontato un ingresso automatico di Edimburgo nell'Unione? È così dal punto di vista monetario. Intanto Salmon ha ribadito proprio poco fa che la Scozia manterrà la sterlina e si è rivolto agli scozzesi per un ultimo appello. Lo slogan è via da Londra ma con Bruxelles. Abbiamo il 60% delle riserve di petrolio e di gas d'Europa, dubito che l'Unione Europea voglia fare a meno di noi. Così Salmon, proprio per rispondere alla tua domanda sul sì o no di questa Unione Europea. Quel che è certo è che la Scozia dovrà chiedere di nuovo l'ammissione in caso di indipendenza a partire dal marzo 2016, ottenerla e convincere tutti i membri a votare il sì, compresa la Spagna, dove in caso di vittoria del sì potrebbero riaccendersi anche quegli indipendentismi della Catalogna e anche nelle Fiandre in Belgio, quindi il voto di tutti i membri non è affatto scontato. Un processo dunque né rapido né scontato, quello europeo, che riguarda anche la NATO, perché dall'Alleanza Atlantica bisognerebbe uscire e ci si chiede già che fine faranno le basi di Fastlane, dove sono parcheggiati i sottomarini nucleari britannici di cui Salmond dichiara sostanzialmente di volersi sbarazzare. Allora, grazie a Francesco De Remigis, anche tu naturalmente tornerai ad aggiornarci nelle prossime ore sul referendum e da domani anche sulle operazioni di voto, e noi veniamo alla cronaca italiana perché emergono nuovi dettagli e una lunga lettera del ragazzo che ieri si è gettato dal settimo piano trascinando con sé la sua ex fidanzata. Non scrivo per essere ricordato, soprattutto perché dopo questa serie i ricordi sarebbero tutti negativi. Inizia così la lettera di 3 pagine che Pietro Maximilian Di Paola ha lasciato ai suoi cari. Nello scritto il ragazzo anticipa con precisione e lucidità la sua intenzione di gettarsi dal terrazzino della sua abitazione, trascinando con sé Alessandra Pelizzi, la ragazza di 19 anni che poche settimane prima l'aveva lasciato. La sera di lunedì il giovane invita la ex fidanzata a casa sua, poi chiede al fratello e a un'altra amica di lasciarli soli. I due finiscono in terrazzo, litigano, poi Pietro si lancia nel vuoto insieme a lei, come riportato da una testimone oculare. Un piano preciso descritto nei minimi dettagli all'interno della lettera pubblicata oggi su Repubblica, un documento che restituisce anche un ritratto delle difficoltà psicologiche del giovane dopo aver perso l'anima ed essersi ridotto, come scrive nella lettera, ad un ammasso di rabbia. Un gesto che diventa anche l'occasione per vendicarsi di colei che l'aveva abbandonato. Adesso gli amici e i parenti di Alessandra Pelizzi la ricordano come una ragazza d'oro, una croce rossina sempre pronta ad ascoltare e a dare un aiuto, una disponibilità che forse lunedì scorso le è costata la vita. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento. Si inaugura stasera a Palazzo Reale a Milano un'altra grande mostra, questa volta protagonista è Giovanni Segantini. Dopo l'autunno americano dello scorso anno, a Milano l'autunno 2014 è tutto europeo, merito anche del semestre di presidenza italiana dell'UE, e tra i 200 eventi annunciati dal sindaco Pisapia, alcune grandi mostre a Palazzo Reale. Così, dopo l'inaugurazione di ieri della più grande retrospettiva mai dedicata in Italia a Marc Chagall, oggi se ne apre un'altra su Giovanni Segantini. L'assessore alla cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno. Segantini è un artista che ha avuto un legame profondissimo con la nostra città, legame che non è mai stato tutto interrogato e sviluppato. A noi interessava però la complementarietà che ha con Chagall dal punto di vista del tema della cittadinanza. Laddove Chagall è cittadino apolide, colui che si sente a casa ovunque sostanzialmente purché gli sia garantita la libertà di espressione. Questo è un tratto anche di identità europea fortissima. Segantini è diverso, Segantini è l'artista di frontiera, è quello che costantemente attraversa un valico tra culture diverse con una fortissima consapevolezza però dell'appartenenza, della radice della propria terra. La mostra su Segantini, che sarà a Palazzo Reale fino al 18 gennaio del prossimo anno, espone oltre 120 opere del grande artista di fine Ottocento provenienti da importanti musei e collezioni private sia europee che statunitensi, ed è curata da Annie Polkinsack e da Diana Segantini, pronipote del pittore. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. Corruzione turbativa d'asta, nuovo indagato per Expo, si tratta del commissario delegato per le vie d'acqua. Riforma del lavoro, l'emendamento del governo prevede contratto a tutele crescenti. Sacconi del nuovo centrodestra dice per i neoassunti cancellato l'articolo 18. Domani la Scozia al voto per l'uscita dal Regno Unito, due sondaggi danno il no avanti di appena 4 punti. Una battaglia di ascolti tra talk show, Floris sulla 7 non va oltre il 3,5%, buona la prima di Massimo Giannini con Ballarò che tocca quasi il 12. Saluto Tiziano Albrigi che è preside del liceo scientifico Fracastoro di Verona. Buongiorno preside, benvenuto. Buongiorno. buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, che cosa è successo? Che per abbassare il contributo volontario che di fatto devono le famiglie, volontario insomma poi si fa per dire, da 180 a 150 euro, avete messo uno sponsor sul libretto delle giustificazioni, suscitando, devo dire, qualche polemica. È un'azienda, tra l'altro, che produce pollo surgelato da friggere. Senta, ci spiega un attimo, Presi, non le sembra un po' strano? Ma no, io penso che dovrebbe apparire più strano il fatto che la scuola sia in difficoltà finanziarie, soprattutto in questi giorni che sono uscite le linee della buona scuola da parte del governo. Questa dovrebbe essere la notizia sensazionale che fa sensazione, che la scuola non ha sufficienti fondi per gestire le proprie necessità, perché noi a Verona abbiamo un'altra difficoltà, non solo quelle, come dire, consuete di ogni anno scolastico. Alla difficoltà che quest'anno la provincia ha bloccato i fondi per il patto di stabilità che ci assegnava su delega per la manutenzione ordinaria e il funzionamento della scuola. La cifra che per le scuole significa 15.000-20.000 euro, non pochi soldi. Ecco, a fronte di queste difficoltà lei capisce che la scuola deve arrabattarsi in altro modo. Sì, e lei dice, insomma, ci sono anche queste soluzioni. Ma ha ricevuto proteste da parte dei genitori, da parte di qualcuno? No, nessuno. Devo dire che anzi ho ricevuto degli attestati di riconoscimento del fine, perché bisogna andare al fine ultimo, che è quello che a fronte di una riduzione del contributo volontario da 180 a 150 euro per le famiglie, noi siamo riusciti con il contributo di sponsorizzazione del prodotto a abbattere più della metà il costo dei libretti personali, e questo è il fine nobile, diciamo, tra virgolette. Sì. Dopo tutti vorremmo sponsorizzare biblioteche, teatri, opere d'arte, ma sappiamo benissimo che questi non bussano per darti soldi. Per darti soldi. È vero che no, c'è qualcuno che dice, preside, ma insomma, proprio la scuola che dovrebbe favorire l'alimentazione sana si fa sponsorizzare da un pollo surgelato da friggere, insomma. Sì, io penso lì bisognerebbe aprire un altro versante di riflessione. È più conveniente sponsorizzare una banca al giorno d'oggi o i piedini di pollo da friggere? Io ho la mia idea. Farsi sponsorizzare da una banca, dice. E mi fermo. Cioè lei preferisce essere sponsorizzato dal pollo da friggere che da una banca, in sostanza, questo? Ma no, è perché le banche anche oltretutto ultimamente hanno rallentato questo flusso di denaro diciamo finanziamento delle scuole, non sono più come una volta, probabilmente aperto una crisi. Non è facile trovare sponsor, questo è il problema. Ultima domanda, c'è qualcuno dei suoi colleghi, insomma immagino che lei li frequenterà, li conoscerà, che sta seguendo, sta per seguire o vuole seguire il vostro esempio? Le posso dire che un collega mi ha telefonato e mi ha detto: senti, ma come hai fatto, che voglio farlo anch'io. E lei l'ha messa in contatto con questa azienda? No, io ho detto come ho fatto, la decisione non è aspettata a me, è vero? La decisione l'ha presa il consiglio dopo che è stata presentata la proposta di un nostro genitore del comitato e su il giudizio espresso sulla base di un regolamento di sponsorizzazione, è vero? Cioè, da questo punto di vista siamo assolutamente in regola. Allora, La ringrazio, grazie a Tiziano Albrigi, preside del liceo scientifico Fracastoro di Verona. Insomma, qualche polemica su questa vicenda ci sarà, però insomma, torniamo all'argomento principe di questa giornata, che è la riforma del mercato del lavoro, e saluto Teresa Bellanova, sottosegretario al lavoro, benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora, abbiamo visto che il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Sacconi, spiega che dall'emendamento che lo stesso governo, desumendolo dall'emendamento che lo stesso governo e che voi dunque avete presentato oggi, per i neoassunti viene cancellato l'articolo 18. È effettivamente così? Ma io credo e invito tutti a stare al merito. Il testo è depositato e il testo, come dire, si può leggere con grande facilità, noi parliamo non di come togliere diritti, ma parliamo di come dobbiamo portare in porto questo grande processo riformatore che è la delega sul mercato del lavoro. Io insomma, vorrei evitare polemiche perché vorrei invitare tutti a uscire da questo teatrino. La delega sul mercato del lavoro non è la cancellazione dell'articolo 18, la delega sul mercato del lavoro è, se ci riusciamo, se siamo capaci di dimostrare che anche la classe politica è in grado di dare una risposta ai bisogni del Paese, è quello di coniugare il diritto dei lavoratori e il diritto dell'impresa a competere dentro regole ben precise. Allora, sottosegretario, mi scusi. Allora, siamo perfettamente d'accordo su questo, che la riforma ha una portata più ampia. È vero però che sull'articolo 18 si concentrano una serie di problemi, una serie di difficoltà di rapporti, tanto all'interno del suo partito, del Partito Democratico, quanto all'interno, insomma, del sindacato dal quale tra l'altro lei proviene, insomma, perché lei proviene dalla CGIL, come insomma prima di entrare in politica stava in CGIL, quindi è un tema. Io vorrei capire se con questo contratto a tutele crescenti che avete presentato oggi come emendamento alla delega succede quello che Sacconi dice, cioè che per i neo assunti almeno nella prima fase l'articolo 18 non viene applicato. Si parla di contratto a tutele crescenti, non di contratto a tutele negate. È evidente che, così come non abbiamo mai nascosto, dal momento in cui è stata presentata la delega e dal dibattito di merito, poi c'è il teatrino della politica, ma quello diciamo, vediamo di tenerlo fuori da questa nostra conversazione, il merito è che il contratto a tutele crescenti, le tutele aumenteranno mano a mano che aumenterà l'anzianità dei lavoratori, l'anzianità di servizio dei lavoratori, e questo è quello che è affidato poi ai decreti attuativi. Oggi nell'impianto complessivo c'è esattamente questo, si fa un esplicito riferimento, perché noi parliamo, non abbiamo paura delle parole e di affrontare, perché non siamo né conservatori né innovatori sprovveduti, siamo persone che vogliono dare una soluzione a problemi che si porta avanti questo Paese da molto tempo, uscendo da una polemica insopportabile. Noi parliamo di un testo semplificato, di una riscrittura, e parliamo di mansioni, parliamo di controllo a distanza e si fa riferimento evidentemente ad articoli dello statuto dei lavoratori, e parliamo appunto del contratto a tutele crescenti, che non è la negazione dei diritti. La tutela piena dopo quanti anni di contratto scatta? Questo è affidato, noi oggi con il testo che ho depositato per il governo nella commissione e lavoro, entro le 14 i deputati potranno presentare eventuali subemendamenti, e spero che domani mattina alle 8:30 affronteremo voto di merito su questo emendamento. Noi quello che abbiamo presentato è la richiesta di una delega al governo per riformulare questi punti, e poi diciamo sarà la saggezza di chi dovrà lavorare sulla scrittura dei decreti delegati e definire in un impianto quanto più unitario e condiviso possibile quelli che saranno i tempi per le tutele crescenti. In questo momento vedo numeri che francamente non sono scritti da nessuna parte, né 6 mesi, né 3 anni, né altro. C'è una richiesta di delega, perché noi dobbiamo sapere che cosa stiamo facendo. Stiamo chiedendo al Parlamento una delega al governo per riformare questi punti del mercato del lavoro. Filtrano dal direttivo della CGIL in corso dichiarazioni di Susanna Camusso, che dice questa questione è lo scalpo da portare ai falchi delle politiche liberiste in Europa. Noi non dobbiamo portare scalpi da nessuna parte, c'è una rivendicazione che io ho molto apprezzato del Presidente del Consiglio di agire in autonomia, senza ignorare il dibattito che c'è interno a noi, ma senza neanche farci condizionare da impostazioni ideologiche. Noi dobbiamo fare i conti con la realtà. Io le posso dire che tra le mie deleghe ho quella delle relazioni industriali. Troppi licenziamenti, purtroppo, in questo Paese, non per volontà delle imprese, per una situazione economica devastante. con la riforma del mercato del lavoro dovremo affrontare il tema di come far entrare le persone nel mondo del lavoro, non di come farle uscire. Grazie, quindi, grazie a voi, Teresa Bellanova, sottosegretario al lavoro. Naturalmente su questa vicenda ci resteremo. C'è qualcuno che ci dice, il sottosegretario non ha risposto, in realtà ha risposto, ha detto che è a tutele crescenti e quindi evidentemente in una prima fase dell'assunzione l'articolo 18 non ci sarà. È da stabilire quanto durerà questo tempo dopo evidentemente l'approvazione della delega. Forse non era abbastanza dalla risposta, ma il concetto era sostanzialmente questo. C'è un nuovo indagato per Expo, si tratta del commissario delegato per le vie d'acqua. Riforma del lavoro, l'emendamento del governo prevede il contratto a tutele crescenti. Camusso dice l'articolo 18 è uno scalpo da portare ai falchi liberisti dell'Unione Europea. Replica il sottosegretario del lavoro Bellanova, non c'è nessuno scalpo da portare. Domani Scozia al voto per l'uscita dal Regno Unito, due sondaggi danno il no avanti di appena 4 punti, sottolineando i problemi con l'Europa in caso di secessione. Dopo la minaccia del produttore di Montalbano di spostare il set in Puglia, replica Crocetta, ci dovete 25 milioni, ma l'accordo sarebbe vicino. La borsa. Borse in diretta. Bene, oggi più 0,98% il FTSE MIB, altrettanto il FTSE All Share, meglio del resto d'Europa dove Francoforte guadagna lo 0,40%, Parigi lo 0,68% e Londra appena lo 0,05%. Isabella Tasso, Radio Core, il Sole 24 Ore, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Quanto pesa su questa performance di Londra l'approssimarsi del referendum scozzese del quale parlavamo poco fa? Ma la prossima si conta, come dicevi, i sondaggi non danno un vantaggio definito per quanto riguarda il fronte del no all'indipendenza, questo dà luogo a ampie incertezze sia per quanto riguarda il futuro istituzionale che per quanto riguarda il futuro economico e valutario del Regno Unito. Diciamo che il giudizio dei mercati resta sospeso, l'attesa è tutta per l'esito del referendum domani sera. Veniamo a noi, veniamo a Milano. Come mai le cose vanno così bene? Siamo addirittura sopra il punto percentuale. Le cose vanno bene sulla scia di Wall Street, peraltro vanno bene anche per altre borse europee. L'attesa è tutta per l'esito della due giorni del Consiglio della Riserva Federale Americana, che sarà illustrato in serata dalla Presidente Janet Yellen. Le indiscrezioni riportate da Wall Street Journal sono che la Fed possa essere meno aggressiva di quanto già scontato nei giorni scorsi dai mercati, che quindi reagiscono con un moderato rialzo. Milano va meglio perché va bene il settore bancario, in particolare Mediobanca, che ora è in rialzo del 2% circa dopo l'annuncio di un ritorno all'utile nell'esercizio che si è chiuso a fine giugno, di un ritorno anche al dividendo con una cedola di 15 centesimi. Grazie anche per oggi Isabella Tasso di Radio Core, il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Oh, ci ha scritto sulla pagina Facebook della trasmissione di Effetto Giorno una nostra ascoltatrice, Silvia, a proposito della vicenda del liceo scientifico Fracastoro di Verona, che per abbassare il contributo volontario ha messo lo sponsor di fatto sui libretti delle giustificazioni, una vicenda che sta facendo discutere. Ci fa notare, al di là della questione in sé, che quella è una scuola, visto che lei ci abita davanti, dove addirittura a volte lasciano le luci accese tutta la notte. Magari nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, andremo a rirecuperare il preside e gli chiediamo se i risparmi li poteva fare da qualche altra parte, oltre che mettendo lo sponsor, cioè una questione che comunque rimane in campo come eventuale tema di discussione. Parliamo di TV adesso, con il confronto a distanza tra Giovanni Floris sulla 7 e Massimo Giannini su Rai 3, tra i due talk show ha prevalso Ballarò. Giannini Floris 1-0, se lo aggiudica Ballarò il primo match della sfida TV del martedì sera. Secondo i dati Audit, il programma di Rai 3 condotto da Massimo Giannini al suo esordio televisivo ha totalizzato 2.503.000 spettatori con l'11,7% di share. Per di martedì, la nuova avventura di Giovanni Floris sulla 7, 755.000 spettatori e il 3,4% di share. Per Giannini una sostanziale conferma della media del programma nello scorso anno, per Floris invece un risultato sotto la media della rete per quella fascia oraria. Ieri sera la sfida tra i talk si è giocata fra comici: Roberto Benigni a Ballarò con la poco riuscita formula conduttore spalla, Maurizio Crozza a Di Martedì. sfida all'insegna comunque del politicamente corretto. Innanzitutto consentitemi due ringraziamenti. Il primo ringraziamento lo devo a Giovanni Floris, senza il quale questo programma non sarebbe diventato quello che è. Dovete sapere, giusto, se lo merita. Speriamo ci sia modo, piano piano, di convincere le persone che tanti anni sono state con noi di tornare a seguirci, di tornare insieme a noi, piano piano, col tempo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E continuiamo a parlare di televisione, o meglio in questo caso di territorio e di valorizzazione del territorio, perché nei giorni scorsi il produttore della Palomar, Carlo degli Esposti, aveva detto: potremo spostare la produzione di Montalbano dalla Sicilia alla Puglia. Se ne era parlato appunto perché la Sicilia evidentemente non contribuisce abbastanza a questa produzione. Oggi, tra l'altro, pochi istanti fa è arrivata la notizia, degli Esposti e Crocetta, il presidente siciliano, si sono sentiti. Degli Esposti ha detto di essere un po' più possibilista. Voglio salutare Renato Nuccio, che è presidente del Consorzio degli Operatori Turistici di Modica. Buongiorno Nuccio. Buongiorno. Allora, voi siete disposti ad autotassarvi pur di mantenere Montalbano in Sicilia? Sì, assolutamente, una proposta che io porterò in consiglio immediatamente all'assemblea stessa dei soci, perché riteniamo un fatto estremamente importante a cui non possiamo rinunciare: il fatto che le fiction di Montalbano rimangono nel nostro territorio. Senta, ma che impatto ha? Voi avete un qualche tipo di misurazione? Vi siete fatti un'idea di quanto una fiction di grandissimo successo come quella di Montalbano possa aver portato turisti nella vostra zona? Io non ho un feedback scientifico, diciamo, da un punto di vista statistico, però sicuramente tutti i turisti che vengono, io sono un operatore turistico, spessissimo chiedono di visitare i luoghi di Montalbano, quindi evidentemente c'è un link, un collegamento abbastanza forte tra questa trasmissione e questo territorio e il personaggio Montalbano. Mi dicevano addirittura di una navetta quotidiana nella quale tutti quelli che salgono su questa navetta dicono: cioè, portateci, esatto, alla casa di Montalbano. Portateci alla casa di Montalbano, infatti. Devo dire che sarebbe veramente un disastro, oltretutto non abbastanza comprensibile, che dove è ambientato sul territorio siciliano questo personaggio venga trasferito in un territorio diverso. Certamente. Senta, Crocetta dice la RAI ci deve 25 milioni di euro, ma si capisce come mai? Lei ha capito perché? Guardi, io non conosco bene questi meccanismi perché non me ne occupo. Comunque io credo che anche la RAI deve fare la sua parte, nel senso che non può stare un po' a guardare. Io credo che debba assolutamente anche dare una mano su certe cose. In fondo la RAI è la TV di Stato. Sì, come dire, magari deve dei soldi alla Regione Sicilia, però a questo punto, da quel che ci racconta lei, gliene fa incassare anche tanti. Beh, penso di sì, questo è un affare che cercheranno di risolvere fra di loro. Io ritengo intanto che RAI debba fare esattamente il suo mestiere, quindi di informare, e nello stesso tempo, perché no, di promuovere laddove possibile quelle che sono tutte le iniziative che economicamente sono anche valide. A quanto ammonta il contributo che state ipotizzando di mettere in campo? Guardi, noi naturalmente abbiamo fatto una previsione di circa dalle 600 alle 800 presenze da dare come candidazione logistica per tutta la troupe che viene, no? E che viene quindi sul territorio. Ma ritengo che questa sia anche una provocazione per cercare di stimolare anche gli altri. Cioè, mi scusi Nuccio, li ospitereste gratuitamente? Ospitereste gratuitamente la troupe e tu quelli che lavorano su Montalbano, in sostanza? Esatto. E mi diceva, la faccio concludere. Diciamo che questa è sicuramente, non può con questo concludersi quello che è l'onere di una produzione. Naturalmente è una parte, è un contributo che noi possiamo dare. Speriamo che questo possa servire comunque a stimolare anche gli altri attori di questo territorio per poter dare una mano anche a risolvere questo problema. E comunque sia, è anche una provocazione perché l'istituzione si muova quando ci sono questi problemi di una certa importanza. Grazie Renato Nuccio, presidente del Consorzio degli Operatori Turistici di Modica, lo abbiamo detto, disposti ad autotassarsi pur di mantenere Montalbano in Sicilia, anche se sembra che da questo punto di vista le notizie che stanno arrivando in queste ore ci raccontano di una qualche apertura da parte del produttore, che aveva minacciato di spostare la produzione in Puglia. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Fagin come sempre in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Ci risentiamo domani alle 13 appunto con Effetto Giorno e tra un attimo con GR24.